con il regista Claudio Giovannesi per parlare del suo film La paranza dei bambini, al cinema da mercoledì 13 febbraio 2019. Claudio, ben trovato. Ciao Federico. Complimenti, intanto non era facile come operazione. Ti chiedo subito com'è stata l'accoglienza internazionale in quel di Berlino. Ma è andata bene, per fortuna. È stato il film emozionato e la prima proiezione che c'è stata, che poi è stata per me la prima proiezione con il pubblico, è stata molto emozionante perché i ragazzi, a fine proiezione a Berlino succede che ti prendono e non, durante gli applausi, che per fortuna ci stavano ed erano molto calorosi, ti portano via, ti mettono in una stanza in attesa che finiscano i titoli di coda e poi ti fanno salire sul palco per ricevere gli applausi. E in quel momento, quando sono portato nella stanza, i ragazzi non riuscivano a smettere di singhiozzare per l'emozione, quindi quello è stato molto emozionante. Poi il film è andato bene perché è stato venduto in 30 paesi e sai, i festival. Poi a quello servono a far uscire una cinematografia nazionale e a portarla in un percorso internazionale. E questa prima settimana di programmazione? Ma questa mia settimana di programmazione sta andando bene, sta andando benissimo in Campania, ovviamente. Cioè, ho saputo che in un cinema di Casoli hanno dovuto prendere il servizio d'ordine per l'affluenza di folla che c'è stata, ovviamente, quindi in Campania, in Puglia, nel sud Italia, che in qualche modo, come dice Braucci, no, su Napoli, Napoli è la capitale del Mezzogiorno, quindi è un film sud, e nel sud adesso lo stanno andando a vedere, così no, sta andando bene. Come lo descriveresti in breve a chi ci ascolta? Ma questo film è un film su un gruppo di adolescenti che perdono l'innocenza. Cioè, non è un film su dei criminali, non è un film su degli spacciatori, è un film su un gruppo di ragazzi che vivono in un luogo dove le istituzioni sono lontane, le possibilità di lavoro non ci sono e per avere soldi, per avere lavoro, iniziano a lavorare per il sistema, per quello che i giornali chiamano la camorra. E tutti loro sono mossi da desideri semplici, identici a tutti quelli degli altri adolescenti, quindi delle macchine, no, le macchine, scusate, i motorini, gli orologi, i vestiti firmati. Il protagonista invece, oltre a questo, oltre a, appunto, al soddisfacimento dei beni, la società dei consumi si propone, il protagonista invece vuole liberare il quartiere dal clan dominante, cioè vuole portare giustizia, ma siccome ha 15 anni ha l'illusione di portare il bene attraverso il male, cioè di fare giustizia all'interno di un sistema criminale ed è un'illusione come tale si rivelerà e avrà degli esiti ovviamente tragici. Come era partito il progetto e come si è messo in moto? Ma il progetto è partito dal libro di Saviano, La paranza dei bambini. Roberto mi ha voluto come regista, lui e il produttore Carlo degli Esposti mi hanno chiamato e mi hanno proposto questo libro. Il punto di partenza è stato comune, cioè di lavorare non sull'aspetto criminale, ma al contrario, sull'aspetto dell'innocenza, cioè sul racconto dei ragazzi adolescenti, sul fatto di ritrovarsi davanti agli occhi, senza giudizio, dei sedicenni che potrebbero essere i nostri figli, i nostri fratelli. E quello che fa il film è rispondere proprio a questa domanda, cioè che succede a un gruppo di sedicenni alla loro età? Che cosa succede all'adolescenza quando fa un percorso di genere, quando fa un percorso criminale? E questo è stato il punto di vista, cioè di fare un film che è un romanzo di formazione sulla perdita dell'innocenza. Cosa ti convince maggiormente del testo di Roberto Saviano? Le parti del romanzo di Roberto che mi hanno colpito di più sono state quelle in cui veniva fuori l'aspetto sentimentale e soprattutto l'aspetto infantile dei personaggi. Le scene in cui era chiaro che avevano 15 anni e a 15 anni sei ancora incosciente, le scene in cui veniva chiaro che quello che facevano, anche se erano dei reati, venivano vissuti con l'innocenza e l'incoscienza del gioco e questa contraddizione era poetica. E questo qua sono stati poi gli aspetti del romanzo che sono confluiti nel film. Rispetto alla questione Camorra, girando a Napoli, che atmosfera hai respirato? Ma noi abbiamo scelto di ambientare il film nel centro storico napoletano, perché il centro storico di Napoli, a differenza di altre città italiane, è ancora popolare ed è una grande ricchezza per me. Quindi ho girato in luoghi che mi ricordavano la Napoli di Edoardo, la Napoli di Sica. E girare lì ovviamente è stato complicato, ma come è complicato girare nelle location, nei luoghi veri dove la gente vive. E lì l'atteggiamento che si deve avere è uno solo, cioè arrivare non da invasori, perché la macchina cinema può essere molto ingombrante, arrivare come ospiti, e come ospiti siamo arrivati, abbiamo cercato il più possibile di coinvolgere gli abitanti del rione portando lavoro, quindi coinvolgendoli come servizio d'ordine, come autisti, come assicurazioni. E quindi quando secondo me si entra in un luogo così, in questo modo, e lei è stata brava la produzione che ha gestito tutto questo, in qualche modo stai facendo del bene, perché stai portando lavoro, e quando fai del bene non dai fastidio a nessuno. A livello di sceneggiatura, che rapporto c'è stato con la scrittura di Roberto? Come avete lavorato insieme? Abbiamo iniziato a lavorare insieme, io, Maurizio Braucci, che è uno scrittore e sceneggiatore napoletano che ha lavorato pure con Garrone, e Roberto a New York. Ci siamo visti noi tre a New York e abbiamo preso in mano il romanzo e abbiamo deciso in che modo trattare la materia del romanzo. Questo è stato fondamentale perché ha permesso di avere un punto di vista comune, cioè già l'individuare il tema, che era la perdita dell'innocenza, è stata una cosa che poi ha guidato tutta la lavorazione. Questa lavorazione poi ha proseguito a Napoli, io mi sono trasferito a Napoli, proprio nei luoghi dove ho ambientato il film, per conoscere bene la realtà che andavo a raccontare. Oh, nel tuo percorso cinematografico stai dedicando una grossa attenzione all'adolescenza. Come hai maturato questa attitudine? Ma perché gli adolescenti sono personaggi molto cinematografici, perché a differenza di noi adulti vivono i sentimenti in maniera assoluta, no? Tutti noi a 16 anni viviamo l'amore, l'amicizia, soprattutto, che diventa fratellanza in maniera totale, con una questione di vita e di morte. Questa forza sentimentale diventa la forza sentimentale dei personaggi e suscita poi delle emozioni nel pubblico, si riesce ad avere empatia con questi personaggi. Senti, il rapporto sul set con questi giovanissimi a Napoli? È stato sorprendentemente facile, perché contro ogni mia aspettativa erano ragazzi che avevano capito che stavano lavorando e quindi avevano l'atteggiamento professionale di chi sapeva che stava facendo un lavoro e che come tale era fondamentale per la riuscita del progetto. C'erano responsabilizzati dal fatto che venivano pagati ed erano responsabilizzati dal fatto che sapevano di essere al centro di questa macchina, e quindi immediatamente si è creata una situazione di squadra in cui tutti quanti lottavamo per l'obiettivo finale, che era il film. E che impressioni ne hai ricavato da questa esperienza nel complesso? Ma sicuramente che la formazione è fondamentale. Questi ragazzi qua che abbiamo preso sono ragazzi che la maggior parte di loro non va a scuola, lavorano per delle cifre bassissime, eppure hanno un talento e una voglia di crescere enorme. E quindi tutto quello che si deve fare è avere un progetto educativo che funzioni meglio. Nel mio caso, lungi da me avere un intento pedagogico quando faccio un film, perché cioè, la pedagogia la devono fare a scuola. Quello che però abbiamo cercato di fare è di essere vicino a questi ragazzi, a dei personaggi, e questa vicinanza per me c'è anche un valore politico, perché te stai vicino a degli esseri umani con i tuoi sentimenti e senza giudizio apri un processo di conoscenza nei loro confronti, conosci delle realtà che sono in genere rimosse, dimenticate, e questa conoscenza dell'umanità, la conoscenza dell'umanità poi è l'obiettivo che deve avere anche lo spettatore quando vede il film e prova empatia con questi personaggi. Bene, allora ricordiamo il film La paranza dei bambini al cinema da mercoledì 13 febbraio 2019. Un saluto e un ringraziamento al regista Claudio Giovannesi. Claudio, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Un abbraccio Federico, in bocca al lupo, a prestissimo. Ciao. Ciao. Ciao.